Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni attraverso storia e musica. Oggi siamo nel 1991. In quell'anno Mike Tyson, il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, vede interrotta la sua corsa all'ennesimo titolo mondiale a causa di uno scandalo. Viene accusato di stupro da una miss. Lui si difende e dice: era sesso consenziente. Ma arriva la condanna. Inizia così la lunga caduta del campione tra periodi in carcere, risse selvagge, comportamenti violenti. Nel 1989, dopo la vittoria del titolo mondiale, a Mixer si raccontava così. Ma che cosa le ha dato la box che prima lei non aveva? Orgoglio e dignità, capisce? Mi fa sentire accettato e mi dà una grande sicurezza. È cresciuto nel ghetto. Com'era la vita nel ghetto? Ero un ragazzo selvaggio, una specie di belva feroce. E come sa, tutto quello che di brutto e di violento si poteva pensare era associato al fatto di essere nero. Essere un ragazzo nero e vivere in un ghetto urbano a New York è il peggio che ti possa capitare. Ma oggi, secondo lei, è cambiata la vita nei ghetti? Certe cose sono sicuramente diverse. In alcuni ambienti ti guardano in maniera più umana. Comunque sei sempre nero e c'è disprezzo e pregiudizio sul colore della tua pelle. Ma allora lei è critico nei confronti della società americana di oggi? No, per quello che mi riguarda questo è il più gran bel paese del mondo. Ma e perché lo considera il più bel paese del mondo? Perché hai la libertà di esprimerti come vuoi. È un paese capitalista e io sono capitalista. Io credo che sia un paese che aiuta gli altri. A me piace aiutare gli altri. È bello aiutare quelli che vogliono essere aiutati. Ma insomma, il razzismo fa parte della sua vita oppure no? Come ho detto, il razzismo è nato e cresciuto negli Stati Uniti. Non c'è nulla da fare, è qualcosa con cui ti devi confrontare. Negli ultimi 20 anni abbiamo fatto molti passi avanti. Ti dirò qualcosa di particolare su tutta la situazione. Simon Wiesenthal ha detto che non bisogna mai dimenticare, e sono 2000 anni che ciò succede agli ebrei, e loro non lo fanno dimenticare a nessuno. Questo è il mio grande credo. Non devi mai dimenticare, anche se la tua situazione personale migliora. Non devi dimenticare che cosa ti è costato raggiungerla. E dire a te stesso: io ce l'ho fatta. Ma milioni di altri componenti della grande famiglia della razza nera sta ancora soffrendo. Non bisogna essere egoisti e non bisogna dimenticare. Ma una volta lei ha detto: se perdo non mi amerà più nessuno. Lo pensa sempre. Oggi sono certamente una persona più sicura e più matura. Se qualcuno smette di amarmi, se dovessi perdere, significa che non mi amava neanche prima. Se non sei abbastanza intelligente da amarmi, io sono felice, perché ho intorno tanta di quella gente che almeno so chi devo tenere lontano da me. A parte quello che possiedo economicamente, sia che vinca o perda, io ho qualcosa in più. Ho carattere e forza. E se qualcuno mi ama solo perché vinco, non possiede niente di tutto ciò. Comunque anche l'uomo più ricco e più potente del mondo, senza forza di carattere e senza sensibilità, non è nessuno. Ecco, signor Tyson, i sondaggi dei giornali femminili americani dicono che lei è uno dei 10 uomini americani che piace di più. Sono tutti matti. Non sono un playboy. C'è stato un errore di persona. Ecco, ma a proposito di donne, lei cosa cerca in una donna? Prima di tutto, la lealtà e l'indipendenza. E la bellezza no? Anche la bellezza, ma non è determinante. Se una donna è bella, è meglio, ma cerco soprattutto una donna leale. Sì, la lealtà è la prima cosa. Signor Tyson, le faccio un'ultima domanda. Pensando al suo passato, qualcosa da rimpiangere? Che rimpiange? Quando ero un ragazzino, rimpiango di non aver capito mia madre, il suo amore. Ero troppo violento ed egoista. E qualcosa di cui si sente orgoglioso? Me stesso. Me come uomo. Come uomo che cresce. Ma il 1991, tra storia e musica, arriverà tra poco insieme a Franco Schipani e Alessandra Fiori, che adesso, con Alessandra Cravetto, come sempre, fa il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, ma lo sai chi è stato l'unico difensore di Tyson in quel difficilissimo periodo? No, dimmelo tu. Te lo dico io. All'epoca era solo un celebre, piuttosto celebre palazzinaro di New York. Oggi è lui, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Mr. Donald. Mr. The Donald, come dice Secchi. Esatto. E Tyson l'ha ricambiato però, sostenendolo nella campagna elettorale. Beh, avere Tyson dalla propria parte è obiettivamente utilissimo e potrebbe essere anche utile pensandoci a qualcuno qui in Italia che in questo momento proprio fa un po' fatica. Fa la furbetta, ti riferisci a Gentiloni? No, Gentiloni sta alla grande perché non so se hai visto, le hanno messo come cane da guardia la Boschi. In effetti. Hai idea, cattivissima. Paura. Come morde quella nessuno. Comunque io pensavo a un'altra figura. A chi? Più fragile, quasi trasparente, sempre più magra. E chi è? Anche sotto le feste, Virginia Raggi. Ah, povera. In effetti lei ne avrebbe bisogno. Tanto per dire, l'ultima è l'inchiesta sulle nomine con le perquisizioni in Campidoglio. Tra l'altro sono volati anche un po' di schiaffi in consiglio comunale tra PD e 5 Stelle sul caso Muraro. Sei sicura che era sul caso Muraro? Tu li hai sfogliati stamattina i giornali? No, guarda, credo proprio che fosse sul caso Muraro. Li ho sfogliati, non li ho usati come pulisci. Io ci pulisco i vetri. No, perché mi sembrava che ci fosse anche un altro problema, non so se sfogliando hai notato, perché la Raggi è vero che in tutti questi mesi è stata criticata perché non ha fatto quasi niente, però non una vero, cosa l'ha cattiva. Fatta, sì? Ha fatto l'albero di Natale più brutto d'Italia. Ma no, sei cattiva perché lei però ha speso poco. Quanto? Ma una cosa come 15.000 euro. Che vuoi che sia. Esatto, e comunque è intervenuta la CEA e da salice piangente ha trasformato l'albero in un bellissimo albero illuminato. Senti, ma tornando alla Muraro, non pensavo, ma è assessore di cosa? Cos'era? All'ambiente. Adesso è tutto chiaro. Quindi, riassumendo la situazione, la Muraro, assessore all'ambiente, si è dimessa perché l'albero di Natale faceva schifo. Brava, Cravetto, è una sintesi perfetta. Senti, comunque, intanto però, Roma capitale, sì, il sito, la tua Roma. La mia Roma, sì. Ha avuto un'idea geniale. Tu sei andata sul sito di Roma capitale? Ci vado tutti i giorni come prima lettura. Brava, prima di sfogliare. Sì. No, però guarda, questa volta ci devi andare perché hanno avuto proprio una bella idea. Forse perché sanno quali problemi ci sono a Roma. Pochissimi. Sì. Hanno dato un consiglio. In sostanza, vuoi un capodanno unico? Sì. Vai a Parigi. Sono geniali. Allora, scusami, finalmente faccio un altro collegamento. Sei sicura? Quindi, la stessa che ha addobbato l'albero di Natale è quella che gli segue la comunicazione. E va a Parigi. La notte tu mi fai impazzire, gesta erotiche di Agostino Tassi, pittore. Ecco, è il 1612 e il pittore Agostino Tassi inizia con l'amico Orazio Gentileschi a decorare il Casino delle Muse a Roma. Un anno dopo Orazio gli intenta un processo per avere abusato di sua figlia Artemisia. Il processo è uno dei più clamorosi eventi dell'epoca e suscita una serie di dicerie che diffamano di volta in volta Artemisia, Agostino e lo stesso Orazio. Ma chi era Agostino Tassi, il celebre stupratore di Artemisia Gentileschi? Oggi ce lo racconta il nostro ospite speciale che è Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Ecco, La notte di Salvatore Adamo, per il tuo libro appunto La notte tu mi fai impazzire. Pietrangelo, intanto, perché un libro su Agostino Tassi? Perché c'è tutto su Artemisia Gentileschi, si conosce la sua storia, la sua opera ed è celebrata giustamente tra gli spiriti sommi, non si conosce nulla, pochissimo si sa se non attraverso gli atti processuali della vita di Agostino Tassi, le cui geste erotiche portarono anche ad incontrare Artemisia. Tutto dipende da quell'atto violento per Artemisia e paradossalmente soltanto un incidente invece nella vita tutta di lussuria e di delitti del suo violentatore, del suo stupratore, artista al pari di Artemisia, artista come il padre, amico del padre, ed è una storia totalmente immersa in quella che era la Roma del tempo, una Roma fatta di grandezza e di bellezza. Quindi tu ci racconti il tassi anche per svelare un poco il lato poco conosciuto del secolo di Artemisia e anche di Roma. Beh, quella è una Roma profondamente incardinata nel maligno, è la città di Dio nelle mani dei senza Dio, ed è anche la città che vede fiorire nei suoi cantieri le meraviglie che oggi ammiriamo, le chiese, le basiliche, le grandi opere, cui parteciparono tutti i maestri del Seicento e quella stagione del Barocco che fu grandissima, che ancora oggi ammiriamo, dove questa comunità di artisti viveva immersa con la consapevolezza di essere artigiani e non certamente i grandi maestri che hanno fabbricato poi l'immaginario. Senti, ma ogni capitolo del tuo libro si apre con un detto, una cosa che mi è molto piaciuta, un motto, e il secondo è: chi è figlia di gatta, sorci piglia. Che vuol dire? Serve a raccontare com'è la vita di Artemisia Gentileschi fosse stata sempre accompagnata dalla maldicenza. Aveva una nomea, essere la scrofa della città, e si diceva che appunto, essendo figlia di sua madre, che forse non era la donna onesta che tutti pensavano, ma che fosse data in sposa ad Orazio già portando in grembo il figlio di un altro, era un voler proseguire in questa maldicenza che aveva marchiato definitivamente lei. In questo caso, chi è la gatta e chi è il sorcio? In questo caso, paradossalmente, il sorcio è Agostino. È Agostino. Perché la gatta trionfante sarà lei. Ma una cosa che, Pietrangelo, tu mi devi perdonare, ma c'entrerà molto poco. Ma che cosa sono invece le gatte morte? Nella metafora, altro non sono che le donne che, fingendo di stare altrove, apparecchiano la trappola definitiva ai poveri fessi chiamati maschi. Grazie Pietrangelo. Grazie a te. La notte tu mi fai impazzire. Gesta erotiche di Agostino Tassi, pittore. Schirà. Ma buttafuoco è sempre complicato, perché per essere delle vere gatte morte bisogna essere altrove e intanto apparecchiare. Esatto, che vuoi di più? È stato chiarissimo. A me sembra impossibile. Io comunque non credo di farcela. Io neanche, non ci provo neanche, rimango morta senza la gatta, va bene? Senti, Cravetto, è Natale comunque, un po' di contegno. Hai ragione. Brava. Allora, facciamo in serie. È Natale e bisogna pensare anche agli altri, come fa proprio in questi giorni la comunità di Sant'Egidio. Vincenzo non ha una casa, è uno dei 200.000 invitati al pranzo di Natale di Sant'Egidio, persone che come lui hanno perso tutto. Durante l'anno Sant'Egidio è in strada per aiutarli. A Natale regaliamo loro il calore di un pranzo in famiglia. Sostienici su sant'egidio.org. A Natale regala il Natale. A Natale regala il Natale, ma invece tu a regali come sei messa? Io? Sì. Non ne ho ancora ricevuto nessuno, però è anche presto. No? Non intendevo se li hai ricevuti, ah, se no? Li hai fatti. Non mi pongo il problema. Va bene, io invece me lo sono posto e uno l'ho già fatto ed è quello per la mia bambina. Ma come sei carina. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopo guerra, pettinate come lei. Allora, l'unico regalo di Natale che ho già fatto è un libro che ho regalato alla mia bambina ed è stato il libro più venduto in Inghilterra fino ad oggi. Ma tesoro, come sei chic, sempre, come sempre. Chic, molto chic. Molto. Allora, si chiama, tradotto in italiano, Dove è finito il mio nome? Allora, puoi ordinarlo online e il protagonista diventa il tuo bambino che, nel man mano che l'avventura va avanti, incontrerà delle cose che hanno le lettere che alla fine formeranno il suo nome. Ah, ma sì, ho capito più o meno, però a me mi è venuto in mente un'altra cosa. Lo faceva, sai chi? Chi? Abbattantuono quando scandiva Attila. Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lac di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna. Buttatemi l'am, buttatemi l'am. ecco. L'ultima A funziona anche per noi, certo. Perché iniziamo uguali. Ecco. Allora, invece dimmi. Ora ti vorrei raccontare un'altra storia che potrebbe essere molto utile nel caso in cui tu stia organizzando qualche viaggio di Natale. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Francesco Longo Bifano, 42 anni, avvocato, nel 2010 con altri soci ha creato un sito che oggi è anche una app che si chiama rimborsoalvolo.it, che si occupa di rimborsare il biglietto aereo seguendo tutte le pratiche al posto vostro. Francesco, buongiorno. Prima di tutto, quali sono i casi in cui io ho diritto al rimborso per un biglietto aereo? Essenzialmente quattro: quelli del ritardo, della cancellazione del volo, quello della ritardata consegna del bagaglio, quello dello smarrimento del bagaglio e infine del negato imbarco, il cosiddetto overbooking. Per quanto riguarda il ritardo, è importante dire che deve essere superiore ai 180 minuti, alle 3 ore. Il rimborso non è del prezzo del totale del biglietto, ma sono delle somme fisse. Esattamente, prescinde da quanto speso, e possono essere di 2,50, di 400 e di 600 a seconda della tratta. Quindi quello che è importante è la lunghezza del viaggio: da 0 a 1500 km e 2,50, dai 1500 ai 3500 km e 400, sopra ai 3500 si arriva al massimo che è 600 euro. Ok, quindi il massimo per cui io posso avere un rimborso sono 600 euro anche se faccio il giro del mondo in aereo, per capirci. E il ritardo, è importante dire che se è di 181 minuti o di 15 ore non sposta questa somma. Quali sono i casi più comuni per cui i viaggiatori vi chiedono di dargli una mano? Sicuramente sono quelli della cancellazione del ritardo, più raramente l'overbooking e quelle del bagaglio sono marginali. E in quanto tempo riuscite a far avere il rimborso? Possono esserci due tempistiche: quella immediata, quindi in cui davanti alla nostra lettera la compagnia stessa ci chiama e offre quello che abbiamo detto, cioè i 250, 400, 600, oppure siamo costretti ad andare in giudizio, quindi dobbiamo necessariamente procedere davanti a un giudice, mediamente 2 anni. Però il punto vero è che una volta in cui vi prendete voi a carico della pratica, io viaggiatore me ne posso dimenticare, cioè fate tutto voi. Facciamo tutto noi, mandiamo tutte informative al passeggero via mail. Lo sforzo è soltanto iniziale, deve inviarci la documentazione del viaggio e poi lo seguiamo passo passo noi. Ci sono compagnie che più di altre sono restie a rimborsare e si può dire quali sono? Ci sono delle compagnie sicuramente che tengono di più ai propri passeggeri, ai propri clienti, possiamo nominare ad esempio la Lufthansa, sia come tempi di liquidazione, di chiusura, ma sia proprio come cura del cliente. La cosa importante è conservare assolutamente la carta d'imbarco, quello è fondamentale, che è il talloncino che viene rilasciato con indicato il posto a sedere, ecco. Perché quello è l'unico elemento da cui possiamo provare di essere a bordo. Quindi non basta la prenotazione, bisogna avere la carta d'imbarco. È corretto, è veramente importante questo. E spesso alcune compagnie, soprattutto low cost, le mandano sul telefonino e dopo qualche giorno non sono più visionabili, per cui è importante stamparle e conservarle. Quindi lo fanno apposta. L'hai detto te, ma sottoscrivo. Senti, come funziona l'app invece? Cioè, di quali dati c'è bisogno da inserire immediatamente e come viene avviata la pratica sulla app? L'app è immediata, bisogna soltanto indicare il vettore, la compagnia aerea, il numero del volo e la data. Poi si indica qual è il disservizio, se cancellazione o ritardo, e a quel punto viene a noi inoltrata la richiesta, nel giro di 24 ore la smistiamo, immediatamente colleghiamo ad un avvocato del nostro staff, il quale poi chiederà la documentazione al passeggero. Senti Francesco, il punto importante è che tutto questo è gratis, giusto? Tutto questo è gratis per il passeggero. Ok, io ricevo tutto quello che mi spetta come rimborso e voi siete pagati dalle compagnie aeree. Esattamente. Quindi un'ultima cosa, ricordarsi di conservare la carta d'imbarco. E sì. Sì, e mi permetto, per quanto riguarda il bagaglio, quindi problematiche legate al bagaglio, c'è un termine di decadenza perentorio di 21 giorni. Quindi il passeggero cosa deve fare? Deve, appena si rende conto dello smarrimento del bagaglio, della mancata consegna, recarsi direttamente all'aeroporto, che c'è un ufficio preposto, si chiama Banco Lost and Found, certo, sporgere un reclamo e poi inviarci questa documentazione, evidentemente non al 21° giorno, ma appena riesce a contattarci, perché così ne possiamo interrompere questo termine di decadenza di 21 giorni e procedere con il rimborso. Non auguriamo a nessuno di perdere voli o bagagli, ma nel caso ci siete voi. Beh, Ale, è utilissimo. Vero? No, ma davvero. Però, prima di partire, no, per quelli che restano, che famo? Beh, ci sono un sacco di cose da fare, magnare, e poi un altro grande classico del Natale è andare al cinema. I David di Donatella, che poi sono io. Buongiorno Donatella. E niente, quest'anno ci sono solo film di esseri strani, mostriciattoli, cose buffe. Non ci sono più quei bei filmini due palle di una volta. Beh, no Donatella, guardi, forse ci sono molti film fantastici, questo intende, giusto? Beh, non sono tutti fantastici, certi fanno anche abbastanza schifo. No Donatella, intendo film di fantasia, fantastici. Io ho quasi nostalgia di quei bei film due palle, dove ci sono quelli che parlano sempre, non si sparano mai, quelli che se ti fai un sonnellino non ti svegli, perché non ci sono i botti, si sente solo bla bla bla bla, hai capito? No, non tanto. Pensa che quella volta che mi avete mandato a vedere un film indiano, io ho dormito per due spettacoli di fila. Ma pensa un po' a te. Senta, Donatella, passiamo al film di oggi? Nel film indiano ho pure russato. Bene. Comunque oggi ho visto Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali, e mi sono molto divertita senza dormire. Sì, sì. Ti porto in un posto. Vado lì quando voglio stare da sola. Miss Peregrine, piacere di conoscerti. È invisibile. Certo. Nel linguaggio comune siamo conosciuti come speciali. Hai capito? Cioè, questo Jacob, che sentiva sempre parlare di un posto speciale dal nonno. Il nonno un giorno muore e Jacob decide di andare a visitare questo luogo dove vivono dei ragazzi un po' speciali. Ora, se tu una bambina che c'ha il viso carino con tutte le treccine bionde ma mangia da una bocca orrendamente schifosa dietro alla testa, tu me la chiami speciale? Vabbè. Comunque anche Jacob si scopre che è speciale e in più deve anche salvare tutti dagli spiriti schifosi che gli vogliono mangiare gli occhi. Senta Donatella, a me da quanto racconta mi sembra che il regista abbia scelto di ricorrere a una poetica fatta di grandi metafore. Tu hai problemi da risolvere, in fretta? No, tanti, perché? Forti. Può essere, ma perché, scusi? Ma ti sembra il modo di parlare? Ma secondo te la gente che ti ascolta sa questa storia delle metafore? No, metafore. La gente normale ha le metafore in casa? Dai, dillo. Non puoi fare finta di essere acculturata solo perché usi queste parole strane, non è corretto. Ha ragione, Donatella. Ora ti dirò in parole molto italiane il cast e anche la pena. O preferisci la metafora del cast? Io partirei dal cast. Hai riso? No. Sì, allora, il film di Tim Burton. Burton. Che come nome non mi è nuovo. E poi, come attori, ci sono Eva Green, Terence Stamp e pure Samuel L. Jackson. Senta, vale la pena vedere Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali? Certo, perché è un Bene. Film di avventura che però fa anche riflettere. Su cosa, Donatella? E che ne so, che mica riflettono tutti sulla stessa cosa. Io rifletto su una cosa, tu rifletti su un'altra, quello riflette sulla sua. Donatella, la sua profondità talvolta mi lascia veramente basita. Mi commuove un po', sì, io la ringrazio, Donatella, grazie. Prego, per Natale mi regali una metafora. E con il il ritmo della noce arriva Franco Schipani. Ciao Franchi. Ciao Ale. Questo è da trenino proprio. Sì. Fiori, scusa una cosa. Dica. Ma tu hai notato che la Gravetto prima ha detto che famo? Che famo? Cioè, io è pericoloso. Da troppi anni che sei a Roma oramai. Franchi, ci stiamo lavorando. Non mi rovinare tutto il lavoro. Ma dici che il che famo è l'inizio? Ma il che lo scrivo con la K io però. Ah, ho capito. Allora, questa era la vacanza di Natale, ragazzi, fino al 1991. Mi ricordo che c'era questo cast stellare, sempre dei Sighe e Boldi, però c'erano anche Alberto Sordi, capito? Abbiamo capito. Quando Alberto... il casting era casting. E Ornella Muti, che era meravigliosa. Bravo, Ornella Muti, vabbè, roncato, poi insomma... Però Franchi, scusami, però io capisco che noi stiamo per andare nel 91 e quindi il ritmo della però il vero, unico vacanze di Natale è quello dell'83, quello di questa canzone. Sì, vacanze di Natale dell'83, che tu non potevi vedere, che eri ancora piccolina. Però vero? Mia sorella sentiva sempre questa canzone. Moonlight, sì, questa è stata scritta da Mike Oldfield, pensa. Ma che era gli attori, il nonno di Boldi? No, certo. Ah, beh, è un franchising. Ormai, sai, questo Natale. Non so quanti panettoni ci siano quest'anno, quanti cine panettoni. Tanti. Però il primo è lui. È l'unico. Franchi, sei pronto ad andare nel 1991? Andiamo nel 91. Ce l'hai la pelliccia? Sì. Anche il polbacco. Ciao a tutti. Ciao Crab. Ciao. Noi ci risentiamo subito dopo la pubblicità nel 1991. Ciao.